E allora nuovamente dalla piazza, nuovamente dal corteo che si sta muovendo appunto da San Giovanni su via Merulana, dovremmo essere in collegamento con lo spezzone, diciamo, notav dei compagni e delle compagne della Val di Susa. Ci sentite? Esattamente, siamo all'incrocio tra via Merulana e via Labicana. E il corteo non si vede la cima, credo che sia già oltre Santa Maria Maggiore. C'è ancora un grosso pezzo dietro che ancora sta a Piazza San Giovanni, quindi non so se avete già fatto cifre, ma qua almeno 30.000 persone ci sono, ma nessuno, probabilmente anche di più. Nessuno si era, diciamo, ci avevano raccontato il corteo, ma nessuno si era ancora azzardato a lanciare delle cifre. È abbastanza dispiegato e le file sono molto fitte, quindi è più probabile che siamo di più che non di meno. Allora, adesso parliamo con un compagno che viene da Vigliana, che è la parte bassa della Val Susa, e ci facciamo raccontare, insomma, come è stato costruito da loro questa iniziativa, che li vede come promotori, no? Quindi lo spezzone Notav è importante qui, anche se nel corteo è assolutamente prevalente i movimenti di lotta per la casa, che hanno coinvolto anche una grossissima fetta di migranti, e quindi non ne avevo mai visti così tanti in corteo. Quindi niente, do la parola a Giovanni che ci racconta un po' di questi giorni e inevitabilmente anche della repressione che colpisce duramente il movimento Notav. Pronto? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Sei in diretta, vai. Sì, allora niente, il movimento Notav ha partecipato con piacere e con orgoglio a questa manifestazione, primo per dare il sostegno alle lotte che ci vedono da sempre impegnati, seconda cosa anche per non farsi strumentalizzare una volta di più dalla tendenza a demonizzare al massimo chi partecipa a questa manifestazione, che a torto è stata chiamata spesso dai media manifestazione dei Notav. Abbiamo partecipato e partecipiamo, pur essendo molto lontani, per dare il nostro sostegno e per ribadire una volta di più la nostra lotta contro una delle tante opere inutili e dannose che questo governo sta portando avanti. Senti, volevo chiederti, in questa fase appunto in cui la repressione si è accresciuta particolarmente contro i Notav, c'è un'esigenza che avete già espresso di una maggiore organizzazione e legame con altri movimenti territoriali? Abbiamo visto, per dirne uno, i No Muos, che sono presenti in massa oggi, che hanno portato anche tantissime bandiere. A che punto siamo di questo processo di riaggregazione e anche di organizzazione delle varie realtà che lottano, ma spesso abbastanza ognuno per conto suo? Allora, l'esigenza maggiore non è tanto, a mio avviso, quella della nostra, diciamo, lotta unita, ma quella di sconfiggere un muro di omertà mediatico che è imposto. Noi abbiamo avuto ed abbiamo spesso contatti con le altre realtà di lotta. Il problema grosso è che in questo momento forse sembra che in qualche modo si stia, non dico risolvendo, ma qualche crepa la sta mostrando, è rompere questo muro di omertà mediatica che sistematicamente viene eretto da chi ha il potere, anche perché il giorno che si smetterà di parlare di violenza demonizzando i vari movimenti e bisognerà parlare di queste scelte assurde e ridicole, chi adesso ha piacere a parlare solo di violenza dovrà rendere conto al paese di quello che sta facendo. Un'ultima domanda riguarda l'andamento dei lavori lì appunto in Val Susa. Il governo sembra far credere che finalmente sono cominciati e si procederà spediti, però noi sappiamo che anche dal punto di vista finanziario i soldi per quest'opera non ci saranno, quindi come ci puoi dare qualche aggiornamento dal punto di vista dei lavori e di questo discorso dei finanziamenti? Nonostante una pubblicità ossessiva, i lavori stanno andando avanti molto a rilento. È iniziato un funicolo diagnostico che dovrebbe essere, per quello che riguarda la progettazione, propedeutico al progetto definitivo. Al momento i lavori servono a parole solo dalla parte italiana. La Francia ha rinviato al 2030 gli esplosi. Il resto dell'Europa si è fermato perché ha visto che quest'opera non ha nessun senso. perché basti solo ricordare che quando si parla dell'accordo Italia-Francia per quest'opera, l'articolo 1 recita testualmente che questo accordo non è la base per la realizzazione dell'opera, ce ne vorrà un altro, quindi è evidente che l'opera così come viene fatta non verrà mai compiuta. Stanno solo facendo un polverone adesso perché le ditte che loro hanno chiamato in causa possano rientrare dei soldi che hanno speso. Finito questo primo di Walter, si bloccherà tutto e tutti andranno. Grazie. Bene, allora se qui non riesco a sentire perché gli slogan sono a volume molto alto, magari ci sentiamo dopo, va bene. Vado a cercare qualche intervista con i migranti. Ok, a più tardi. Insomma, ci fa piacere sentire insomma il frastuono e le urla dei compagni e delle compagne dalla piazza. Fra l'altro, insomma, la coda del corteo è ancora in piazza San Giovanni praticamente. Sto leggendo adesso che lo spezzone milanese di alcuni compagni e compagne che erano state fermate con i pullman dalla polizia si sta accodando adesso insomma appunto alla fine del corteo, quindi le proporzioni sono abbastanza importanti, direi. Ne approfittiamo pure per dare un saluto insomma ai 500 e più compagni e compagne che ci stanno ascoltando soltanto in streaming. Queste almeno, cioè, sono delle fonti concrete che possiamo avere, perché elettronicamente questo conto si può fare, ne approfittiamo per farlo. Sicuramente diciamo questo rimando anche di connessione in giro per l'Italia fra le varie radio di movimento sta funzionando egregiamente, insomma la cosa non ci può fare che piacere.